A bordo campo di Dario Ricci. Attention à ce ballon là-bas, dans la boîte, avec cette frappe. Et ça passe. Exceptionnel. Exceptionnel. Quel but. Exceptionnel. Au bon moment, cette frappe de Antaria, il avait promis. L'hanno chiamata la madre di tutte le partite di calcio. Beh, sicuramente con un po' di enfasi, ma Algeria-Egitto, la partita spareggio che a Khartoum ha qualificato l'Algeria ai campionati del mondo di Sudafrica 2010, veramente è stata una partita storica per tanti motivi, a partire dal venerdì precedente, dall'assalto dei tifosi egiziani al pullman algerino prima della sfida del Cairo, poi vinta dall'Egitto, fino allo spareggio appunto di Khartoum, vinto poi dall'Algeria. Abdelkader Ghezzal, centravanti dell'Algeria e del Siena, 25 anni, conquistata la qualificazione al tuo primo mondiale, ma dici chiaramente, maggiore la soddisfazione di aver conquistato questa qualificazione o piuttosto quella di essere riusciti a tornare a casa sani e salvi? Diciamo la qualificazione, cioè, quando eravamo lì era di tornare a casa, con la qualificazione era di tornare a casa. Senti Abdelkader, la situazione è stata subito difficile, paradossale, perché all'Egitto serviva una vittoria per 2-0 per portarvi allo spareggio, per portare allo spareggio voi dell'Algeria, e subito al Cairo si sono create delle condizioni estreme per poter giocare. Che cosa è successo il venerdì 12 novembre, alla vigilia della sfida decisiva? Il vostro pullman è stato assaltato dai tifosi egiziani? Sì, proprio così, perché siamo arrivati all'aeroporto tutto a posto, direi anche la grande. Noi ci aspettavamo anche qualche intimidazione, no? Ci aspettavamo, però non così. Poi siamo saliti in pullman, scortati con due macchine di polizia, e dopo un chilometro un assalto proprio, è andato proprio una trappola. Il vostro pullman non era scortato da degli agenti? Sì, erano due macchine, una davanti e una dietro, però noi da quando abbiamo preso il primo sassi ci siamo detti, fai, è soltanto un sasso, va bene, ci può anche stare, perché sappiamo com'è in Africa e sappiamo anche le aspettative di questa partita. Era una delle più calde dell'Africa, perché era l'unico mondo, mi sa, uno si sapeva chi andava al mondiale. Però poi sono partite, cioè, ma a raffica, sassi grossissimi, e da lì ci siamo buttati tutti in mezzo e ci sono stati anche 4-5 giocatori feriti di brutto, pure importante perché erano titolare. Come ne siete usciti nell'immediato da quella situazione? Chi è che vi ha portato in salvo? Perché alla fine eravamo anche abbastanza molto pericoloso. Anche oggi l'unica cosa che mi ricordo è che eravamo tutti sdraiati in mezzo con le poche borse che avevamo portate su. Sulla testa. Poi siamo arrivati in albergo, e da lì era un albergo chiuso e siamo scesi, però è stato 10 minuti di fuoco, proprio pesante. Tant'è che poi siete scesi in campo nello stadio del Cairo e molti di voi portavano ancora addosso le conseguenze di quell'aggressione. Sì, infatti, perché come l'ho detto, sono ferite i giocatori importanti della squadra. In quelle ore dalla FIFA avevate ricevuto dei segnali, dei messaggi? Subito abbiamo fatto immobilizzare l'albergo e il pullman, che comunque era tutto rotto, non c'era più un pezzo di vetro. I giocatori feriti si sono, prima di essere stati curati, hanno aspettato la gente della FIFA per vedere un po'. Poi abbiamo avuto pure la fortuna che un giocatore al primo sassi ha iniziato a fare un video, perché non si aspettava altre sassi, cioè soltanto per fare il video. Poi è successo tutto questo e abbiamo avuto il video. Abbiamo consegnato tutto alla FIFA, hanno guardato tutto, e poi il giorno dopo loro hanno chiesto al presidente della federazione e al presidente della Repubblica Egiziana di garantire tutta la sicurezza della squadra, di tutti, che se noi una cosa avevamo un altro piccolo sasso, qualsiasi cosa, era partita persa al tavolino. Immagino che scendere in campo al Cairo con questo antipasto, con questa vigilia, non deve essere stato proprio facilissimo. No, non è stato facile, però poi è chiaro che secondo me qualsiasi squadra che sarebbe successa sarebbe ripartita la sera stessa. Questo è chiaro, questo sono convinto. Però, cosa va convinto a rimanere? Perché alla fine questo gesto ci ha dato ancora più. Noi alla fine lavoravamo tutti i giorni, ma invece di ripartire vorremmo rimanere e giocare, perché ci ha fatto incazzare tutti e ci ha fatto ancora di più, ci hanno dato ancora più forza. È stato per quelle che dico che noi siamo state molto forti. Quello è poco ma sicuro. Detto questo, però, l'Egitto poi ha vinto quella partita per 2-0, segnando tra l'altro il gol decisivo esattamente dopo 6 minuti di recupero. Insomma, che clima si respirava in campo? Perché tutto sommato si è visto da fuori, si pensava che tutto sommato meglio che vincano gli egiziani, perché altrimenti qua scoppia un pandemonio. Sì, Fatma, tutti algerini. Quando abbiamo ottenuto il spareggio, l'altra partita, hanno detto meno male che alla fine comunque non abbiamo vinto lì, perché secondo me sarebbe successo di peggio, perché il stadio è enorme, 90.000 avvelenati, cioè alla fine magari era destino, è scritto così. Era meglio per noi, secondo me, perché poi siamo andati a giocare in Sudan, tutta un'altra cosa, giochi fuori Egitto. Siamo arrivati al punto per cui giocare in Sudan, che è un paese purtroppo martoriato da anni da una guerriglia civile, era diventato meglio che giocare al Cairo, insomma. No, sicuramente. Poi anche sul rapporto tra Algeria e Sudanese, che hanno un rapporto anche di presidente a presidente, da nazione a nazione, molto, molto legate. Appena l'arrivo in Sudan ci hanno trattate tutte in un'altra maniera, ci hanno accolto alla grande, all'albergo stavamo bene, tutta un'altra cosa, tutto per preparare la partita al meglio. Ti chiedo, Abdelkader, il rapporto invece con i giocatori egiziani, perché chiaramente da entrambe le parti si sapeva quello che era accaduto, le tensioni che c'erano intorno a questa sfida. In campo che cosa vi dicevate? C'è stato modo di parlarne, di confrontarvi? No, sicuramente, sinceramente, in campo non è che ci siamo parlati tanto, ci siamo più messe botte che parlate. Perché poi si è creata una situazione che comunque è andata... Io che l'ho vissuta da dentro, che è andata secondo me altro al calcio, che è andata altro alla partita, ma si è creato di tutto all'interno del gruppo loro, dei tifosi loro e dei tifosi nostri, che era diventata aria pesante. Sembrava anche strano, per dire, il giorno della partita siamo entrate una squadra di una parte e un'altra squadra dall'altra parte, cioè una cosa mai vista. Quindi siamo l'unica partita siamo entrate così in campo. Non eravate uno a fianco all'altro? No. Loro sono scesi da sopra, dalla tribune centrale, e noi siamo usciti da un'altra parte, da un altro spogliatoio. A quel punto però quella partita qualcuno doveva vincerla per forza, quello era il guaio. Questo era il guaio. Beh, e meno male, è andata bene a noi e sono molto contento. Diciamo che nel piccolo ci ha avuto giustizia. Giocare in uno stadio in cui c'erano 40.000 spettatori e 15.000 poliziotti, che effetto fa? Qualcuno di voi può aver pensato, oddio, qua sbaglio un calcio d'angolo, o figurati, magari mi danno un rigore, lo tiro fuori, succede di tutto. Sì, a parte che noi dall'inizio alla fine i tifosi nostri, era il popolo nostro, non, anche se non ce l'andavamo. È chiaro, era una grandissima delusione, però hanno visto che noi, anche nella sofferenza e tutte quelle lì che ci hanno fatte subire, ce l'abbiamo date tutto. E il pericolo era proprio, penso, fuori dello stadio. Di quella partita di Khartoum, quale immagine ti rimane più viva nella memoria? Quella che conserverai anche quando avrai finito la carriera, quando parlerai ai tuoi nipotini di questo mondiale che andrai a giocare? Sicuramente, e tutti i militari che c'erano intorno al campo, e proprio l'aria, e quando le due squadre sono uscite, il stadio si sembrava che si è alzato, e non si sentiva più niente. Tra l'altro poi il ritorno ad Algeri per voi è stato come averla già vinta la Coppa del Mondo, sì, vero? Sì, è stata quella sensazione lì, è stata una cosa che io a 24 anni ho mai visto. Io ho vissuto il mondiale e il mondiale vinto della Francia nel 98, non era neanche così. E io una roba che ho visto quando sono andata ad Algeri, quel pullman aperto, è una cosa incredibile, però era pure bellissimo, bellissimo. Purtroppo ci sono state anche delle vittime, sì, in, sì, quei festeggiamenti, saputo. Ecco. E abbiamo saputo, è molto dispiaciuto perché è un peccato. Cioè, in un momento di gioia e di vittoria così, che ci sono alla fine, siamo arrivati anche ai morti. Abdelkader, ti chiedo ancora, pensi che dopo queste tensioni, dopo queste partite fra voi e l'Egitto, si possa poi tornare a parlare solamente di calcio in questa rivalità tra Egitto e Algeria, oppure quello che è successo lascerà comunque un segno, una ferita? Parlando sinceramente, proprio il mio pensiero, secondo me lascerà qualche ferita perché come l'ho detto, c'era una pressione intorno a quella partita troppo impressionante, che secondo me, per dire, fra un mese e mezzo inizierà la Coppa d'Africa e sarà di nuovo aria calda. Ti senti di poter lanciare un messaggio ai tifosi algerini ed egiziani in qualche modo per favorire una riconciliazione? Alla luce di quello che hai vissuto sul campo, di quello che hai vissuto al Cairo, della gioia vissuta a Khartoum? No, è sicuramente è molto dispiacevole e spero che tutto questo ritornerà alla normalità, per dire come c'era prima, un po' di rivalità, ma era tutto qui. Ma penso che piano piano tornerà così, perché la gente, loro comunque secondo me hanno visto che hanno pure sbagliate, e noi che ci siamo comportati molto bene, e per quelle che secondo me tornerà tutta la normalità. Abdelkader Ghezzal, allora grazie per essere stato ospite a Bordo Campo, buon campionato italiano, ma soprattutto lasciatelo dire, buon campionato del mondo con la tua Algeria Sudafrica 2010. Grazie mille. A Bordo Campo. Primo piano, calcio. Tragedia nel calcio tedesco. Robert Henke, 32 anni, portiere dell'Hannover e della Nazionale, è stato trovato morto nei pressi di un passaggio a livello. Si è suicidato gettandosi sotto un treno. Henke lascia la moglie, una bimba di 8 mesi, adottata nel maggio scorso, a 3 anni dalla scomparsa di sua figlia morta a soli 2 anni per problemi al cuore. La forte depressione sarebbe la causa del gesto. Primo piano, calcio. Era il 10 novembre scorso, l'Europa del calcio, il mondo del calcio si stava preparando a conoscere i nomi delle ultime squadre qualificate ai campionati del mondo di Sudafrica 2010, si stava per giocare l'andata degli spareggi, delle ultimi spareggi nelle varie zone mondiali, insomma si pensava al calcio giocato, quando invece dalla Germania è arrivata una notizia tremenda e terribile. Robert Henke, il portiere dell'Hannover 96, si era tolto la vita. Prima la notizia è arrivata in tarda nottata, si è cercato di ricostruire quello che era accaduto, poi particolari sempre più chiari, e alla fine è risultato quantomeno chiaro che a portare via Robert dal campo del gioco e soprattutto dall'affetto dei suoi cari, dei suoi amici, era stata la depressione, questo male oscuro, il male del nostro tempo con cui siamo costretti a confrontarci e a lottare. Marco Villa, che tipo di calciatore era Robert Henke? Che tipo di portiere era? Perché molti in questi giorni hanno provato a ricostruire il profilo dell'uomo, scavare nella sua vita, ma forse abbiamo un po' sottovalutato il portiere che era, perché Robert era nel giro della nazionale tedesca, portiere di vertice. Ecco, raccontacelo un po' come portiere. Ma secondo me è stato un po' sottovalutato per il fatto che non giocava a livello europeo in Champions League o in Euroleague. Purtroppo l'Hannover intorno al 10 in posto si è chiuso l'anno scorso la stagione. Allora non ha giocato in Champions League. Da un anno e mezzo era il portiere della nazionale, era un ottimo portiere con grande qualità tecniche e pure a livello umano. Però è stato sottovalutato per quel punto lì, perché non giocava in Champions League con il Bayern Monaco o con un'altra squadra tedesca, insomma, perciò non era famosissimo qui in Italia. Ci sta parlando al telefono del nostro ospite a bordo campo, Marco Villa, 31 anni, capitano dell'Aquila Calcio, era anche grande amico di Robert Henke. Ecco Marco, come vi eravate conosciuti? Come era nata la vostra amicizia? Noi ci siamo conosciuti nel 93, giocando per la nazionale Under 15 tedesca, ci siamo conosciuti lì. Poi nel 96 Robert è venuto al Borussia Mönchengladbach, dove giocavo e dove sono cresciuto io. Abbiamo vissuto 3 anni lì benissimo insieme. Poi lui è andato al Benfica, è andato al Barcellona, al Fenerbahce, è tornato in Bundesliga dopo un'avventura al Tenerife in seconda divisione in Spagna. Io invece ho girato, sono andato in Austria, in Grecia, sono tornato in Germania, a Nürnberga, poi sono venuto nel 2003 qui in Italia. Però la nostra amicizia è rimasta sempre. Eh sì, insomma, in questi giorni si è parlato di tanti momenti cupi della parabola di Robert, però immagino invece quelle che erano le vostre telefonate, il vostro condividere momenti belli con le famiglie, insomma, anche credo tanti momenti belli che poi rimangono nella memoria, nel ricordo, no? Assolutamente, era una persona speciale, non era solo depresso, abbiamo vissuto i momenti al militare, per esempio, insieme, momenti bellissimi, stupendi. Perciò non è facile accettare quello che è accaduto, però la vita va avanti e in un modo e in un altro lo devo capire e lo devo accettare quello che è successo. La morte di Robert Henke ti ha anche dato modo così indirettamente di parlare di questo problema della depressione e hai detto uno dei problemi maggiori degli atleti è anche quello di non avere altri interessi oltre allo sport di vertice. Ecco, da questo punto di vista, per quella che è l'esperienza di un calciatore professionista pure del tuo livello, è veramente così, così difficile uscire dal campo di gioco, uscire dal ruolo del giocatore professionista? Ma noi iniziamo tutti quanti per divertimento, insomma, quando siamo piccoli ci vogliamo divertire e spesso di noi giocano il calcio, come ho iniziato io, però poi da quello che ho capito parecchi giocatori perdono quel divertimento lì, per loro diventa un peso. Secondo me diventa un peso pure perché i lobby, insomma il divertimento è diventato una professione. A parte della professione non hai più altri interessi, cioè, la mattina ti alzi e mangi, fai colazione come deve fare un calciatore colazione, mangi pranzo come un calciatore, poi vai a fare l'allenamento, ti riposi come un atleta, insomma come un sportivo, come un calciatore, cioè, tutta la vita intorno a te si gira nel mondo del calcio, non ci sono momenti dove ti stacchi e pensi a altre cose, almeno per tanti, secondo me per tanti calciatori la vita è quella. Poi con 30 o 35 anni sai che prima o poi smetti e devi trovare un'altra professione, un'altra vita devi creare. Secondo me qualcuno poi si spaventa sapendo che devi cambiare. Si può anche parlare di un ambiente come quello dello sport, magari anche quello del calcio in particolare, che è ancora immaturo ad affrontare problematiche di questo tipo. Hai parlato anche di una sorta di tabù rispetto al tema della depressione nel mondo dello sport, dove inevitabilmente primeggia l'immagine dell'atleta vincente, riuscito, ricco, di successo, e chi invece vive questo disagio affronta come primo problema quello di non riuscire a confidarlo. Io penso in generale l'uomo non deve essere debole nella nostra vita, almeno quello è quello che pensa la gente, e soprattutto lo sportivo, il calciatore non può essere ferito, non può essere debole, sentimentale, cioè questo non c'è lo spazio nel mondo del calcio per quegli attributi, cioè tu devi essere forte, devi essere vincente. Però purtroppo una squadra su 18 vince il campionato e altre 17 squadre con 20 o 25 giocatori non sono meno importanti, però in quell'anno lì non sono stati vincenti, però tutta la dirigenza forse di una squadra, i tifosi, tutti quanti vogliono che vinci, se non riesci insomma non è tanto bello, non è bello, però non vuol dire se un anno o due anni non vinci che non sei un vincitore, sei un perdente, però la gente ti fa credere questo. È un mondo dello sport che spesso non riesce a vivere in maniera distesa, serena, a discutere anche di altri tabù, no? Hai fatto riferimento in alcune interviste anche al tema omosessualità. Sembra che soprattutto nel calcio, diciamo, anche, non so, ricordo i pareri espressi da CT, da grandi allenatori, da grandi personaggi, sembra un tema del tutto estraneo a questo ambiente, molto probabilmente non è così e molto probabilmente affrontandolo si potrebbe ragionare insieme, no? Ma assolutamente, però la percentuale, cioè nella percentuale qualche giocatore, qualche calciatore dovrebbe essere omosessuale ancora, però nessuno ha fatto l'outing, nessuno ha detto che guarda io sono omosessuale. Vuol dire che c'è paura, c'è ansia di qualcosa. Allora sicuramente c'è qualcosa che non va nel mondo del calcio, però penso nel mondo dello sport. La depressione, l'ansia, gli attacchi di panico non sono solo però non sono solo malattie dello sportivo, sono in crescita pure insomma nella vita fuori dallo sport. E questo mi fa pensare che la pressione aumentano le malattie mentali, e questo mi fa pensare, non può andare avanti così, qualcosa secondo me tutti insieme dobbiamo cambiare. In qualche modo il mondo dello sport forse ne sta prendendo consapevolezza, mi viene in mente anche la sincerità con cui un campione come Gigi Buffon aveva confessato, no, questi suoi disagi psicologici e come li aveva affrontati, ma possono esserci altri passi concreti da compiere, e se sì quali, Marco, ti chiedo? Non ho delle risposte, sto pensando tanto, soprattutto nelle ultime 2 settimane, spero di trovare, non ho una soluzione, però tante soluzioni per farlo diventare un problema un po' meno grave, per uscire fuori con i suoi problemi, di dichiarare, qualcuno dovrebbe dichiarare, guarda io ho dei problemi e cerco aiuto. Spero che la morte di Robert ha un certo senso, che qualcun altro affronta i suoi problemi in una maniera diversa e non solo con se stesso, cioè vuol dire che vai dal psicologo, non lo so, chiama gli amici, dichiara ai suoi compagni che c'è dei problemi, insomma si fa aiutare da qualsiasi persona, però non rimane da solo con i suoi problemi. So che la scomparsa di un amico, come è stata quella di Robert, lascia un vuoto incolmabile e lascia anche queste domande che spesso rimangono irrisolte. Posso chiederti se voi, amici, parenti di Robert, state già pensando magari ad una fondazione o a delle iniziative concrete per aiutare chi magari nel mondo dello sport si trova o si è trovato nella situazione di Robert? State già studiando qualcosa di concreto in questo senso? Guarda, Robert non me l'aveva mai detto, però me l'ha detto un giornalista che Robert voleva scrivere un libro sulla nostra amicizia. Il libro doveva essere chiamato Robert Henke e Marco Villan, un'amicizia calcistica. La moglie me l'ha chiesto di scrivere questo libro. Per il momento non sono pronto, non è il momento giusto per scrivere un libro, però forse sarebbe scrivere quel libro in futuro. È da vedere, e questo sarebbe una cosa con cui si può aiutare secondo me qualcuno che ha i problemi come ce l'aveva lui. Marco Villa, allora, capitano dell'Aquila Calcio, grazie per essere stato ospite di Radio 24 a bordo campo, e aspettiamo allora di leggere queste pagine su questa splendida amicizia. Va bene, grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it e scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.